Ma quel cretino di Parenzo, ma cosa mette? No, è vero, ma denunciateli a sta gente qua. Tutti e due compari, sono due cretini. La zanzara. Tutto il resto è troia. No, non ho detto gioia. Prego, perché ti sia salute, perché tu stia bene e perché tu anche fra 20 anni possa predicare il contrario di quello che stai predicando adesso, perché tu stai facendo, tu non ti rendi conto, ma stai predicando il male. Il tuo programma non dovrebbe chiamarsi La Zanzara, è una linea erotica gratuita. Io prego, dico signore, ti prego, converti Luciani affinché creda nelle tue parole, in quello che crede, e l'amore. Il mio candidato alla presidenza della Repubblica, quando convertiti, ci saranno le convertiti. No, non mi convertirò mai, lo voglio dire all'amica da Messina, se non sbaglio, che mi ha anche scritto delle mail, non ho risposto ancora, cara amica da Messina, se mi stai ancora ascoltando, che vuoi che io mi converta, non ti ho ancora risposto, cara mia, perché ci sto pensando, ma ci sto, no, a convertirmi naturalmente, a come risponderti, e mi ha mandato 3 mail anche molto incazzata, perché non mi rispondi, non ti voglio rispondere perché non so ancora come risponderti, voglio fare le cose per bene, non ti posso rispondere così, ah no, con la prima cosa che mi viene in mente, dai. Stavo dicendo, il mio candidato ideale per la presidenza della Repubblica, come ho già detto ieri, è quest'uomo, si chiama Francesco Siciliano, ha subito quello che sappiamo, una rapina, ha reagito, un furto, un tentativo di furto, ha reagito sparando in testa, almeno se così sembra, al rapinatore che è morto, il caso di Vaprio Dadda, se ne parla ormai da giorni e giorni e noi continuiamo a parlarne perché, nonostante il fatto che molti ci dicono basta con questa storia delle armi, delle pistole, eccetera, ma è la cosa, oggi ero in giro per Milano, no? Bar, alberghi, dovevo rinnovare la patente, una rottura di coglioni pazzesca, file contro file, l'unica cosa di cui si parla è questa, cioè è l'unica cosa di cui si parla, c'è poco da fare, e anche della carne. Beh, la carne è un tema molto importante. Sì, no, la questione della carne è una cosa sentitissima. Vedo già le aziende sul piede di guerra, sì. Quelle che pare che addirittura pare che gli italiani abbiano diminuito del 20% già in un giorno il consumo di carne rossa, con perdita di denaro dei macellai, eccetera, eccetera. Ma che nessuno ha detto non mangiate carne rossa, peraltro. Sì, vabbè, cioè, la solita cosa, nessuno l'ha detto. Ma tu sai che cosa succede in questi casi, no? L'Organizzazione Mondiale della Sanità mette in giro queste cose e subito la gente... Insaccati, hanno detto, soprattutto. E poi non è che ha detto non mangiate insaccati. Mamma mia, io divento pazzo, guarda. Con questa tua nuova... Nouvelle Vague di spiegare quello che è già chiaro. No, c'è una rottura di coglioni inaudita. Cioè l'OMS sulla carne, tu devi specificare, non è, no, sono non gli è insaccati. Chiaro, non è già chiaro. Ma chi se ne frega? È un'introduzione questa. È la radio, non è la spiegazione, non è un simposio, non è un incontro sulla filosofia, cioè non è una spiegazione, non è una lezione universitaria. Io vado ai matti, guarda, vado ai matti. Il mio presidente della Repubblica, Siciliano. Farle loro, perché continuano a litigare. Un mese, un referendum chiaro, e il popolo decide, il cittadino decide, perché la pelle è la nostra. Io volevo vedere se succedeva al figlio del Alfano, al figlio del ministro quell'altro, cioè i figli loro sono privilegiati, perché oggi ci sarebbero 5 psicologi, cioè sarebbero già magari al mare a rilassarsi per riprendersi. colpito al petto, sembra, poi adesso andranno a verificare ovviamente. Io quest'uomo lo trovo spettacolare, perché in televisione... Ma tanto, questo mutante che ti frega dove l'hanno colpito? Cioè, se per te è legittimo no, sparare, non me ne frega niente, no, non me ne frega nulla. Appunto, la dinamica, no, che te ne frega? Assolutamente. Sono tutte robe da Zecca Garbuglia. Assolutamente. Evviva che l'hanno ucciso, no, e basta, no, come dici tu, no? No, fermo, non dico evviva, Sì, sempre, ha fatto benissimo. Ha fatto bene, che non dico evviva, ha fatto bene. Ma come ha fatto bene quell'altro? Semplificazione radiofonica. Ma non c'entra niente la semplificazione, ha fatto bene. Nel tuo pensiero. Ma no, ha fatto bene anche quell'altro che ha sparato in aria. Ha fatto benissimo, vedi che tu non capisci quello che voglio dire. Ha fatto benissimo. Beh, anche non sono quello. Sono l'unico a non capire. Beh, pazienza, gli amici tuoi non mi capiscono, la gente mi capisce. No, mica la cosa fondamentale è un'altra. Io adoro il popolo. Sì, la gente, gente, la gente mi a te la gente non interessa. Narcos, ma chi sei? Allora, la cosa, no, la gente, ma quattro. La cosa fondamentale la è un'altra. Gente, la ma cosa fondamentale. Vabbè, ho capito, hai detto Pinochet. Sì, sì, sì, vabbè, vai, vai con le tue cazzate. Il popolo non mi capisce, il popolo mi segue, vai, ma quale popolo? Vai con le tue cazzate, ma quale gente? Vai con le tue cazzate, vai, vai. Il popolo mi segue. No, ma la gente mi capisce, la gente normale ma mi capisce. Ma la gente normale chi? Sì. La gente normale non è stupida, ma tu associ. La gente normale ha stupidità. Io dico stupidaggini, infatti. È semplificazione. Infatti io la gente dico normale non è detto che, no, capisca, sì, che reagisca alle semplificazioni. No, io dico semplicemente una cosa. Uno ha il diritto di difendersi a casa propria, anche sparando a uno che ti sta entrando in casa. E questo lo prevede la legge, già. Sicignano, basta, non ho più voglia di parlare di queste cose, già lo fatto, prevede già fatto, la basta. Legge, già. Sicignano, vai, già. Mettetemi tutto di Sicignano, tanto lo voglio Presidente della Repubblica, mettetemi tutto. Ho sentito l'altro ieri dire aumentiamo le ringhiere, aumentiamo qua, ma scusi, la gente fa fatica a arrivare a fine mese, non c'è i soldi per mangiare e fa spendere 15.000 euro per fare le inferiate. Ma non diciamo delle arrivo, ma lei si rende conto se io non avevo l'arma in casa? Cosa mi sarebbe successo? Io vivo attaccato al balcone della finestra. Entravano in casa, trovavano 120 euro, due fedi nuziali che non ho ancora vendute e una collanina di mia moglie. Cioè, uno che mi bastona a me o la moglie o mi uccide. Cioè, cosa posso dire se ho solo quello? Questa è una tragedia e stiamo tutti male. Mia moglie è molto più degli altri perché ha paura di uscire e continua a piangere. Io sto male ma cerco di reagire perché devo reagire per forza, non posso fare altro. Per queste cose? Ci sarebbero tante cose da fare, ma la gente giù a Roma non... Io oggi li ho definiti degli idioti e dei vigliacchi, perché le uniche cose che si può dire buone, perché se dovrei dire quello che realmente ho dentro sarebbe molto di più. Buonanno dice che rifarebbe vedere la pistola in televisione, alla faccia di quello che ha detto Salvini anche da noi, eh? Ieri Salvini ha detto una cazzata, non lo deve fare più, è l'ultima volta, l'ultimo avvertimento, eccetera eccetera. Ti dico che questa cosa qui la rifarei, ma solo perché... Nonostante Salvini, lo stesso Salvini, il suo segretario, abbia detto che è cazzato. Sì, questo paese ha bisogno di più sicurezza. Bossi invece, nonostante il fatto, ti ricordi Bossi che disse sulle armi, no, David? Disse una cosa, ricordiamo Bossi una volta, qualche anno fa, quando era, insomma, quando era Bossi, nel pieno delle sue forze, Bossi. Insomma, quando era Bossi. Guardate che queste elezioni potrebbero finire con la necessità di imbracciare il fucile e di andare a prendere queste carogne. Le elezioni potrebbero finire con la necessità di prendere il fucile e andare a sparare alle carogne. Adesso invece il fucile, vabbè, che lui disse sempre che era una metafora qua, che non c'erano le armi, non si trattava di armi vere, eccetera eccetera. Oggi contro Buonanno. Cosa pensa del gesto che ha fatto l'onorevole Buonanno, il suo collega, di fare la pistola in TV? Gli possiamo dire che ha fatto una cazzata? Le armi non sono cose per far politico, per cambiare le cose. Capito, Bossi? Vedi che quando uno non invecchia... Non servono. Non servono. Quando uno invecchia diventa più lucido, però. Sì, cioè è la lucidità essere. Del vecchio leone, capito? Questo essere, è interessante. Può essere. Le mattane del giovane Bossi e il bene. No, voglio farvi sentire la moglie del dipendente, quello con le mutande di Sanremo. Adesso, per carità, l'avvocato ci spiega che in mutande per un intervento urgente, 7 minuti dopo stava lavorando. Ovviamente questo si deve difendere, no? Quando ti becca la telecamera con le mutande mentre stai timbrando il cartellino, poi ti devi difendere, altrimenti rassegni le dimissioni, te ne vai con ignominia, punto e basta. E invece dicono che no, lui non ha mai sgarrato, la moglie e la figlia timbravano per comodità, dice l'avvocato. Noi dovremmo crederci e ci crederemo, perché probabilmente il giudice gli darà ragione. Questo che mi fa incazzare, sono quasi sì, vedrai che gli darà ragione il giudice, ma la moglie è spettacolare, Mio marito ha l'ufficio nel corridoio dove abbiamo il coso della timbratura. Ha fatto scalpore il fatto che naturalmente fosse svestito, però il giorno in cui lui timbra svestito risulta che ha lavorato, perché noi adesso stiamo chiedendo tutta la documentazione. Lui esce al mattino alle 6:30 timbrando così, si mette la divisa e va a rimuovere le macchine perché ci sono dei mercati. Per fortuna le prove le abbiamo, perché facendo le rimozioni ci sono le multe. È stupendo, guarda, uno va a timbrare con le mutande, no, ed è tutto meraviglioso. Normale. No, ma la cosa più bella è che molti di questi dipendenti, l'abbiamo accennato anche ieri, del comune di Sanremo, erano i primi su Facebook e sui cosiddetti social network. A insultare i politici, vabbè, sempre. Sì. Quello è fisso. Ma no, sempre un corno. Ti dà l'idea proprio di quanto siano della doppia morale di questi italiani. No, ma perché la colpa è sempre dei politici, vergogna, ma è mai ladri, dei funzionari. Politici, no? ladri. E poi questi andavano in mutande. Dai. Ma è con noi Red Ronnie, buonasera. Come stai? Stai bene? Bene. Io perché non posso avere fisso la radio Red Ronnie? Ma quanto vuoi di soldi, Red, per fare con noi la radio? Cioè, quanto vuoi? 200? Devo dire che ultimamente mi sta più simpatico Parenzo di te. Lo so che ti sta più simpatico Parenzo, perché alla fine c'è questo... c'è questa... Politicamente corretto, sì, melassa. No, sì, melassa. Sì, sì. Questa cosa di... No, della razionalità, del buon senso. Si chiama il cosiddetto buon senso. Cosiddetto. Beh, no, l'assoluto buon senso. Senti, ma tu spareresti a un ladro che ti entra dentro casa tua? Vivi in campagna tu, Red, no? Io vivo in una città isolata, io non ho armi e sono contro l'uso delle armi. Per farti un esempio, se fosse possibile portare l'arma, chiaramente Valentino Rossi, se aveva il cinturone sulla tuta, avrebbe sparato a Marquez. E quindi, come vedi, sì, esatto. non avere l'arma è comunque una cosa che, vabbè, ok, ti picchiano, ti possono picchiare, ti possono fare. Però è una garanzia anche per te stesso non avere l'arma, dici? Sì, è una garanzia per tutto, cioè la corsa alle armi degli Stati Uniti d'America non è che abbia ridotto la criminalità, ha semplicemente aumentato i morti, tutto qui. Beh, se quando sono ladri. Quando sono ladri o criminali, uno dice dipende, può anche dire. Sì, ma sai, avere un'arma, adesso io ti sento perché sei lì che tutte le armi, ha fatto bene Borghezio, le armi, ognuno ha diritto a un'arma, ognuno deve avere un'arma, io ti vorrei vedere con un'arma. No, io non la prenderei. Sarei terrorizzato, lo dico, sarei terrorizzato, però se uno vuole, si sente in grado, si prepara, eccetera, perché no? Cioè, questo dico io, cioè, non dico questo. Ma tu quel signore l'hai visto in televisione, siciliano, quello che ha sparato? Come ti sei? Non guardi la TV. Il moto mondiale, queste cose. Domani sera mi hanno invitato alla gabbia, non ho mai visto la gabbia, non so com'è, ci devo andare? Ma sì, non lo vai, so, divertiti, io sì, ci vado. Chi se ne frega? Vai, divertiti, combatti. Non ti diverti, per come sei fatto tu, non ti divertirai. Ti hanno invitato sulle carni di cui parleremo tra poco insieme a Valentino Rossi, perché la teoria di Red Ronnie, che non è il solo, è quella del complotto contro Valentino. Credo che Red Ronnie non fosse altro perché una questione di regione, conosce Valentino molto bene. A tra poco. Traffico veicolare. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta La Zanzara. Allora, Red, anche su questa cosa non saremo d'accordo, te lo dico subito. Io capisco che uno è amico, capisco le persone che sono vicine a Valentino Rossi, che lo conoscono da una vita per mille motivi, ed è difficile da VIP a VIP dire no, hai sbagliato, caro amico. Da VIP intendo da persona conosciuta al super campione dire hai sbagliato. È difficile per i genitori, ovviamente, è difficile per gli amici. Però io dico una cosa, a parti invertite, l'ho già detto ieri qui alla Zanzara, l'ho detto ieri a Tiki Taka, Vaca, secondo me, a parti invertite, avremmo voluto a rogo uno che fa cadere in quel modo, nonostante le provocazioni, che fa cadere in quel modo Marquez. Questa è la realtà. Sei nell'errore perché non l'ha fatto cadere, e a dimostrazione di questo ti dico, io e te ne capiamo poco di moto, per quanto possiamo essere appassionati, però uno come Loris Reggiani, sì, l'ho sentito. Che era fan di Marquez, attenzione, Giuliani era fan di Marquez. È sempre italiano, No, era fan di Marquez, ma lui, tempi alla mano, ha dimostrato come in Australia Marquez abbia rallentato apposta per far tenere indietro Reggiani, e sì, poi si è andato, no, non Reggiani, Valentino, sì, poi si è andato a prendere Lorenzo, che l'ha lasciato guarda caso passare rallentando come premio per il lavoro fatto, con l'accordo che avrebbero fatto lo stesso anche a Sepang. Cioè, questo è il complottone, certo. Cioè, il complottone è quello spagnolo, complottone spagnolo. Esatto, a Sepang succede che Marquez ha i tempi per essere primo, anche davanti a Pedrosa, però lascia andare Pedrosa, si lascia sorpassare da Lorenzo, sì, e comincia a giocare, a prendere per il culo. Ma mettiamo che sia così, mettiamo che sia così come dici tu, e può essere, anzi sono sicuro che è così, cioè che i due si mettono d'accordo per inculare Valentino Rossi. Sì. Ciò non toglie che durante una manovra quello fa un gesto dalla gamba. No, vado avanti. Vai. Lui lì non la voleva far cadere, è stato l'altro, Reggiani ha guardato attentamente da un pilota la dinamica, e l'altro lui l'ha aspettato per portarlo fuori, perché esasperato ha detto adesso basta, per farlo rallentare in modo da poter dare un'accelerata e potersene andare. E quello che fa? Quello allarga la gamba a un certo punto. Quello è caduto, e gli è caduto contro la gamba, e è dovuto far così perché altrimenti cadeva anche Valentino. Cioè, lui gli è caduto col casco, perché lui ha pinzato il freno e chiuso il corpo. Vabbè, insomma, con il casco voleva far cadere lui Valentino, e lui si è difeso. Questa è la tua tesi? Sì, questa no, se non è la mia tesi, è la tesi di tutti quelli che l'hanno vista. Peraltro, proprio oggi a Radio 24 ho ascoltato Pernat, che ha detto che questa, nella storia del motociclismo, una roba del genere non si era mai vista. Una cosa fatta, tant'è vero che tanti. E dunque, allora, cosa dovrebbero fare secondo te? Ti dico questo per farti un esempio: Roberta Bruzzone, la criminologa, che è una ducatista, quindi odia Valentino. Ma che odia Valentino? Si odia Valentino, odia Bruzzone. Sì, sì. Vabbè, sì, allora oggi è ducatista. Oggi mi ha ritwittato questa cosa, l'ho chiamato e ho detto ma che fai? E mi ha detto questa volta Valentino ha ragione. Ti sto parlando di una che lo ha sempre odiato Valentino, e allora, diceva che rovinava la Ducati. No, vabbè, io dico una cosa, la realtà è molto semplice, tu hai ragione su tutto, però quando lui allarga e c'è uno che cade, uno che resta in piedi, c'è poco da fare in una battaglia, in una tensione, poi alla fine se la prende è in quel posto. È rimasto in piedi perché per evitare di cadere, perché quello gli è caduto addosso, quello gli si è chiuso il volante. Mi ha scritto l'avvocato Trucco, che uno di solito non particolarmente... Ma non è famosissimo, però va bene lo stesso. Che è il mio avvocato, e mi ha detto, io non gliene frega niente del nazionalismo di Valentino Rossi. No, dice, ha ragione Red Ronnie, ho visto il filmato 1000 volte ed è così. Vabbè, questa è Cassazione per me. Vabbè, adesso quando è Cassazione. Parla Trucco, per me è Cassazione. No. Cioè, definitivo. Ma è un avvocato chiuso. Normale, cioè, non è la Corte di Cassazione. Non sminuirlo. Cassazione vuol dire che è giudizio definitivo. Ha ragione l'avvocato Trucco, peraltro. Ma certo, ma con tutte le cause che tu avrai di diffamazione, eccetera, certo, devi tenerti buono l'avvocato, quindi gli devi dare ragione. Non me le cura lui, ma comunque non ma è poi quello. Scusa, il giudice di gara stesso, però adesso io non me ne frega nulla del motociclismo. Perché no, ma però io dico una cosa. Però ha ragione Red Ronnie, mi pare. Io dico, che cosa molto... dovrebbe succedere secondo te adesso? Bisognerebbe boicottare il mondiale, boicottare tutto. No, guarda, vatti a vedere quella dichiarazione che mi ha rilasciato Reggiani ieri sera, che è sulla mia pagina Facebook. Sì, l'ho vista. Ecco, tu lì io non so se ci sarei andato. Ecco, Valente, appunto, no, tu fossi stato nel panni, avresti boicottato tutto, diciamo la verità. Ma probabilmente sì, anche perché Reggiani dice che è impossibile il sogno che tutti i piloti si aprano ventagli e lasciano passare Valentino. Beh, quello sarebbe straordinario, però. Quello sarebbe un gesto incredibile del motociclismo, però è assurdo. Cioè, fregare gli organizzatori, eccetera, facendolo partire allo stesso livello degli altri, questo sarebbe. Esatto, cioè aprirsi, parte sempre indietro, perché attenzione, uno che parte in ultima fila, anche se tutti si lasciano passare, parte sempre con... Vabbè, ragazzi, purtroppo presi da Valentino, che comunque è un argomento super popolare, non abbiamo parlato della questione delle carni, per cui romperò i coglioni a Red Ronnie alle 19:15, perché adesso abbiamo il giornale radio. A tra poco. Uno in casa sua si deve difendere. tutti i pomeriggi dalle 16.30 alle 17 su Radio 24. Oscar Giannino vi aspetta con la versione di Oscar. La versione di Oscar in realtà non è il punto di vista di chi vi parla, è soprattutto la serie delle storie strane, singolari, che contraddistinguono la nostra vita di cittadini di fronte a uno Stato che molto spesso ci tratta da sudditi, la storia di come vanno le cose nell'economia e nella finanza italiana, la storia delle tante parti d'Italia in cui questa crisi per anni si faticherà in realtà a farla tornare a dei livelli di reddito, prodotto, investimenti necessari davvero a restituirci a quello che avevamo nel 2008. Tutti i pomeriggi, da lunedì al venerdì alle 16.30 alle 17 su Radio 24, la versione di Oscar. Non mancate! Il segnale orario vi è offerto da Pantera col TH, l'IRP di Infracom Italia, anche in cloud. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presento La Zanzara. Lei è un cretino, lei pensa di fare lo show business, di far ridere, lei fa piangere. Ma c'hai dei problemi, Cruciani? A Crociata hai dei problemi seri. Il problema sei tu, non sono io. Il problema sei tu. Ma tu sai, Parenzo, che stamattina mi sono messo a fare quasi l'investigatore privato. A un certo punto ho incontrato casualmente due persone molto conosciute, potete leggere tutto sul sito della Zanzara, la Zanzara. Ah, ho visto, certo, eri in un albergo, forse a fare una... Sì, no, con delle amichette. Cazzi miei, perché ero in albergo, non è con delle amichette. Non è che adesso per forza devo raccontarlo a te e a tutto il pubblico ogni passo della mia vita, ma ogni passo della mia vita. Ogni passo della mia vita. Sesso e fai e lecchi e cosa fai e cosa non ti piace. Una volta, sempre, una volta te l'ho chiesto. Tutti i giorni. Ma che tutti i giorni. E adesso la gente, visto che tu ci metti in piazza tutto, voglio sapere cosa ci facevi all'NH di Milano, non mi ricordo qual dei tanti, visto che abiti a Milano e hai un'abitazione, cosa ci facevi in albergo, come ma non ero fanno, in albergo come no. fanno i russi quando vengono qui e dormire. Fanno le loro sveltine con le amiche, non ero a dormire, non ero. Beh, nessuno ha detto che eri lì a dormire, infatti eri lì a farti i tuoi comodi evidentemente con qualche signorina barra signorino, noi non, su questo non lo possiamo. Ma come non lo barra possiamo, signorino, adesso stai, so, stai veramente gettando delle accuse assurde. No, hai sempre detto che proverai trans cose, magari hai provato all'NH, ti sei poi imbattuto. NH può essere qualsiasi albergo, ma dico quello perché è quello. Ti sei imbattuto poi, sì, in quell'incontro del quarto tipo con questo juventino e quest'altro personaggio. Ma non sai nulla, nemmeno chi sono questi qua. Tu non lo sai, questo è il dramma. Il dramma è che tu sei talmente lontano da quello che sente la gente. Ma la cosa che interessa la gente è capire chi è l'amichetto con il quale ti sei nascosto in albergo. Ma non è nessun amichetto. Amichetta, si dovevo sa che incontrare una persona che era in quell'albergo. Dormiva in quell'albergo. Strano. Perché è strano? È strano. Una persona dormiva in un albergo a Milano. Vado in un albergo a Milano. In questo albergo l'NH President che stai in Largo Augusto, vedo e trovo due signori che sono uno una saletta riservata, uno è l'ex, sì, quella dove si lavora, in realtà non era troppo riservata, cioè, sì, va bene. E Origli? Ma no, Origlio, mi metto là a sentire, cioè non è che sì. Origlio e la ragazzina, la ragazza, anzi non ragazzina, è la ragazza con chi alla quale hai dato quel che dovevi dare. Ma non c'entra niente una o il ragazzo, non lo so. Ho detto dovevo incontrare un amico, una persona all'hotel NH President a Milano. Vado lì, incontro, no, perché ha detto vieni qua in albergo da me. Vieni vado qua in albergo che c'è un letto. Lui ancora non c'è, ma non un letto. Fate le vostre porcherie liberamente come volete, non è che sono moralista. Fai quel che vuoi. E la patonza deve girare. Fai le tue porcherie alle ore del mattino che preferisci, Prato, che nessuno. Comunque ho incontrato giudica. L'ex amministratore delegato della Juventus, Antonio Giraudo, che Giraudo. Era insieme all'attuale radiato dalla Federcalcio, che però era insieme al presidente della Federcalcio, vedi come vanno le cose, no? All'attuale presidente della Federcalcio da vecchio. Non ho sentito riconosciuto. Ma no, mi sono un po' mezzo nascosto per fare anche quelle foto, eccetera. No, comunque un luogo pubblico, eccetera. Non è mica un luogo nascosto, non è mica a casa di qualcuno. No, certo. Cioè, era un incontro significativo dal punto di vista della politica sportiva, dello sport, eccetera, eccetera, e mi è sembrato normale. Ogni tanto faccio il cronista, amico mio, faccio la radio, sì. Pur sempre giornalista sono ancora, fino a prova contraria, fino a quando non mi cacciano, quello sono. Ha amico mio, lì te lo dico da amico, è Gatta Cicova lì. Ma Gatta Cicova sicuro, Gatta Cicova sicuro. Però in questo caso, come dice Razzi, non mi sono fatto i cazzi miei, ecco, sì, non mi sono fatto i cazzi miei. Te lo dico da amico, fatti i cazzi tuoi. No, in questo caso non mi sono fatti i cazzi miei, perché ogni tanto mi viene l'anima del cronista del racconto. Abbiamo ancora con noi Red Ronnie, prima di sentire gli ascoltatori. Caro Red, adesso che avete ottenuto questo successo con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che vi ha dato ragione, a voi, come dire, vegetariani, vegani, eccetera, eccetera, per me siete tutti lo stesso. Lo so che tra di voi c'è una guerra, poi, perché i vegani considerano i vegetariani degli spostati, cioè li considerano poco puri da questo punto di vista, no? Cioè considerano, insomma, che ancora devono fare l'ultimo passo, è vero? No, assolutamente no. Ma come no? Ma no, ma è un percorso. D'altra parte stai parlando di una cosa che per me è vecchia di 25 anni. Io queste cose le so da 25 allora, anni. Tu dici l'Organizzazione Mondiale della Sanità è arrivata tardi. Ma no, ti devi chiedere, tu devi andare, visto che ami fare il cronista, vai oltre la notizia, vai a cercare la causa. Allora? Come mai improvvisamente esplode questa cosa? Allora, a questo punto ti do tre opzioni. Dimmi. Una molto, molto semplice, diciamo, dal punto di vista esoterico. Cioè? Siamo entrati, quelli che piacciono a te, le teorie che piacciono a te, entrati nell'era dell'acquario, finisce l'era dei pesci, cambia tutto, si ridisegnano i valori. Meno Io sono potere, acquario. Meno valore al potere del denaro, è questo, e più alle meditazioni, allo stare bene, allo cioè, stare non ho capito, bene. Siamo entrati nell'era del, scusami, dell'acquario, il mio segno zodiacale. E che c'entra questo? Con le meditazioni mica mangio io, però. No, però meno denaro, è un cambiamento, è un cambiamento epocale. Secondo dimmi. Sta esplodendo tutto. Cioè? Esplode questa cosa della carne, però esplodono anche i fiumi che sono, su cui si è costruito abusivamente. Cioè c'è la natura che si sta ribellando alle malefatte dell'uomo. Terzo ipotesi, un fatto economico, cioè gli stati si sono stancati di spendere tanti soldi per la salute, quindi in farmaci, in medicine. Cioè, tu dici eccetera. Che adesso gli stessi che prima erano, come dire, che mettevano a tacere la cosa che la carne rossa è cancerogena, eccetera, eccetera, adesso si rendono conto. Certo, si rendono conto. Migliore, quarta il ipotesi: modo, il miglior modo non per far star bene la gente, perché non gliene frega niente, ma per risparmiare. Non hai visto che hanno cominciato con la sensibilizzazione per gli obesi? Di smettere di mangiare in America da sempre. Però scusami, Red, io capisco queste tre teorie, ci può stare tutto. Beh, la quarta è semplicemente che la scienza è andata avanti con le ricerche e ha scoperto questo. Però allora devi andare fino in fondo. Dopo questa cosa, adesso hai anche l'appoggio dell'OMS. Allora, la carne va bandita, dillo chiaramente, che secondo te va bandita. A me non me ne frega niente, io ti dovrei chiedere di bandire la carne, di bandire le sigarette, di bandire l'alcol, di bandire i prodotti dannosi alla salute. Allora metti una multa per chi la mangia, mettiamo una multa per chi la mangia, devi andare fino in fondo. Assolutamente no, ma è un fatto, tu giustamente ieri l'altro mi ricordo dicevi che anche se metti il tagliandino provoca il tumore, la gente la mangia lo stesso. Io stamattina, oggi a mezzogiorno sono andato a mangiare in campagna a casa di amici, ogni tanto, ogni anno facciamo un pranzo, io avevo la polenta ai funghi, loro avevano la polenta con la salsiccia, io ho detto oh, ragazzi, ma avete sentito? Non gliene frega niente. Giustamente. Cioè, ma giustamente, ognuno fa le sue scelte, hai capito? Cioè, io personalmente ti dico che mangiando vegetariano ho sapori molto migliori di prima. Vabbè, poi ci ha detto anche un esperto che si scopa meglio, un signore che abbiamo intervistato, un professor Pinelli l'altro giorno. Ma ha ragione. Cioè, ha detto non solo che si scopa meglio, addirittura che gli organi genitali maschili e femminili ne traggono beneficio, cioè anche dal punto di vista dell'erezione e tutto. Vedi Parenzo com'è sensibile a queste cose. Ma lui, infatti, l'unica cosa che mi potrebbe, siccome è una cazzata, l'unica cosa che mi potrebbe convincere su quello... è questa. Ma siccome non è vero, ma non mi convincerà. No, ma non puoi dire non è vero. Ma non è vero. La differenza tra me e te è che io ero carnivoro fino al 90 e mangiavo anche 29 costoletti di maiale di ferro in una cena. E oggi sono vegetariano dal 90, quindi da 25 anni, non va male, eccetera. E so come facevo l'amore prima e come faccio l'amore oggi. Cioè, lo fai molto meglio. È solo quello che ti interessa. No, non è solo quella, a me sì, però a tanta altra gente no, ma comunque il sesso è importante per tutti, è inutile che adesso certo, lo facciamo. È importante, però tra preparare varie cose, c'è anche questa. Scusa, però, Red, allora una cosa: chi mangia la carne a questo punto dovrebbe essere tassato di più, secondo la tua opinione? Secondo la tua... Cioè, tassiamo di più chi mangia la carne, cioè mettiamo una tassa maggiore, cioè, sul pesa di più sul servizio sanitario. Questa è una cosa intelligente, perché ad esempio io... Ce la faresti tu? Io non uso farmaci dal 90, non uso antibiotici, hanno già cambiato 4 medici dell'USL, li devo ancora andare a conoscere. Ma questo per culo, questo perché hai culo, dai, su, non perché sei vegetariano. No, perché mangio bene, perché prima io andavo, usavo antibiotici. A mangiare bene è una cosa, essere vegetariano è l'altra, cioè, è un'altra, cioè tutti dobbiamo... Dice che si ammala di meno, lui sì, dice che ora si ammala di meno. Allora, Giuseppe, io ti faccio una proposta. Dimmi, dimmi la proposta. Con telecamera, sì, andiamo e facciamo una cena vegan io e te, ti porto in un posto e alla fine tu mi dici se hai mangiato bene o hai mangiato male. No, ma io mangio bene, io qualche volta mangio pure, il problema che io non sopporto è chi dice che si sta meglio e si vive meglio e sicuramente la salute è migliore e addirittura si scopa meglio, non c'è il cancro, scusa, eccetera, scusa, se uno diventa vegetariano, scusa, perché sarebbe troppo facile allora, dai. Ma se uno ti dice che su una spiaggia di Cuba si sta meglio che a Milano, ti incazzi? No, perché è evidente che su una spiaggia di Cuba stai meglio che a Milano. Mm. E allora se uno ti dice, vabbè, che sto meglio, se sto meglio mangiando così, di salute, ma sì, ma vabbè, ognuno ha le sue sensazioni, eccetera. Ma c'è gente che crepa, c'è gente che crepa lo stesso di cancro, anche pur essendo vegana e vegetariana. C'è gente che sta male lo stesso. Non credo che il tasso di salute dei vegani sia più alto. Non ci sono statistiche da questo punto di vista. Il tasso di salute dei vegani è molto più alto. È molto più alto. Allora tassiamo, è giusto tassare chi, chi mangia. Una tassa sulla carne bisognerebbe mettere, giusto? Ma bisognerebbe mettere che se uno si ammala dovrebbe contribuire di più a quella che è la sua malattia. Ma cioè se i carnivori devono contribuire di più. E certo, perché ma dai, ma io questa cosa qua, io devo pagare più tasse di te perché mangio la carne, ma guarda che sei incredibile. Cioè, se tu volutamente ti dicono guarda che la carne fa male, tu mangi carne. Pago più tasse, pago più tasse. I macellai come, che facciamo? Come li consideri te i macellai? Quelli che proprio stanno là, tun, tun, tun. Ma il problema è un problema loro, cioè... Sì, ma come li consideri? Degli assassini? Nel come mondo, li consideri? Assassini? Mondo, beh, quello, poverini, non hanno la coscienza di quello che fanno. Nel mondo i mestieri si cambiano, poverini. Cioè una volta c'era gente che andava a raccogliere, cioè, il carbone. Cioè per cui dovrebbero scomparire, secondo te dovrebbero scomparire i macellai? Dovrebbero cambiare mestiere? No, cominciare a mettere seitan accanto alla carne, offrire l'alternativa. Quello lo fanno pure. E devono cominciare a prepararsi. Va bene. Caro Red, ti abbraccio, torna presto, mi raccomando, ti abbraccio, sempre al top assoluto. Però non hai detto una cosa brutta, mi piacerebbe fare radio lì a Radio 24. Lo so, ma infatti ci sto pensando seriamente, a presto, ciao. Quanto mi stanno sul cazzo i vegani, oh! State ascoltando un programma offerto da... Centro Software, i migliori ERP per gestire le imprese italiane. La Zanzara. È un incompetente maiale, cioè non capisce. Lei è super intelligente, ma c'è nato super intelligente o c'è diventato con la trasmissione che fa? Non lo so, me lo chiedo sempre. Allora ragazzi, adesso sicuramente mi romperanno i coglioni Parenzo, anche tu mi romperai i coglioni sicuramente. Accanto a me ho un busto in legno di Adolf Hitler, del signor Adolf Hitler. Un busto in legno che mi è stato regalato da un signore che è un collezionista di queste cose, anzi un commerciante di cimeli nazisti, fascisti, eccetera eccetera. Io, come sai, faccio collezione di busti, ho anche quello di Stalin, vuole a casa, certo, ho anche quello di Stalin, di Mao, eccetera. Sì, e ho anche un piccolo busto del signor Hitler, molto rovinato, perché ti piace così? No, ma non mi piace Hitler, mi piace anche il busto di Stalin, non odio Hitler e tutta la sua ideologia, come no, sai. No, ma per carità, certo. Però mi piace fare collezione di busti storici. Questo qua è un busto di legno, anche collezione di qualunque cosa, anche abbastanza prezioso, mi ha detto chi me l'ha regalato, perché è originale degli anni della guerra, diciamo, degli anni della guerra, degli anni 40. Ma perché ho portato oggi qui in redazione, qui davanti alla webcam, eccetera, questo busto di Hitler? Per un motivo molto semplice, perché il tuo amico, anche mio amico, per carità, cioè il mio amico lo considero una persona anche intelligente, vuole fare un disegno di legge, signor Fiano, che è anche candidato sindaco a Milano, bene, per il PD, bene. Candidato, uno dei candidati alle possibili primarie, se ci saranno. vuole sostanzialmente mandare in galera sì, fino a 2 anni quelli che sì, fanno il saluto romano, molto che fanno, bene, no, molto, molto male, molto male, molto condivisibile, molto come in Germania, male, molto come in Germania, male. Paese civile che ha avuto il nazismo, che ha avuto il nazismo, che non è vero che col saluto romano va in galera in Germania, ma comunque dai, cioè, non va in galera in Germania. Comunque lasciamo perdere, e vuole condannare, ripeto, bene, fino a 2 anni chi fa il saluto romano, ma anche bene, chi commercia in immaginette, busti e ricordi vari di Benito Mussolini e del periodo nazifascista. Allora io dico, caro signor Fiano, si può sanzionare. Io se vuole le do direttamente i numeri di telefono, gli indirizzi eccetera di alcuni signori che io conosco, tra cui uno in particolare il mio amico che si chiama Targetti di Prato. Grande Targetti il quale, di Prato, ma di mestiere, lui e il padre, persona, tra le altre cose, fanno anche i commercianti di cimeli nazisti e fascisti. Sì, no, non cioè sono vanno dei a trovare. Certo. Assolutamente non sono dei criminali. No, vanno a, anche in Germania a prendere queste robe, le portano qui e le vendono. Ci sono persone che vogliono comprare una divisa fascista, una divisa nazista. Non c'è problema, lo pagano, sì, e danno i soldi. Certo, ma uno li può giudicare dei malati di mente, chi si compra queste se divise. Tu li vuoi giudicare malato di mente, giudichi malato di mente. Senza dubbio alcuno. Ma sì, chi compra una divisa fascista degli anni dei 40 per te è un malato di mente. Va bene, d'accordo. Beh, molto perché? Oltre, chiederei perizie psichiatriche. Sì, sì, questo sicuro. Sicuramente c'è gente che anch'io sono malato di mente, casa, che dico, colleziono busti. Sono malato di mente pure ma io. No, non entro nel merito di questo, non più magari la divisa. Non lo so, ma hai altre maniere, questa mi pare la più sana tra tutte quelle che tu hai. Comunque, però, arresti anche me, Fiano, arresta anche me, eccolo qua. Arresta pure me, Fiano. No, ho un busto di Hitler. Giusto. Arrestami subito, dai, su, ragazzi. Ma il bello è che queste puttanate, siccome il Parlamento ha altre cose da fare, il saluto romano ha ragione, però. 63 persone hanno firmato questa roba qui. Prima per mettere in galera chi fa il saluto romano, ma non avete veramente un cazzo saluto da fare dalla mattina alla sera che firmare proposte di legge sul saluto romano c'entra? E sui. Ma dai, su, ma è una cosa. Ma non se ne sente il bisogno, non ce ne frega nulla. Dai, su, ma di che parliamo? Saluti da Roma e quindi saluti romani. Ma no, vabbè, ma questo è Borghezio, vabbè, sappiamo come la pensa. Cioè, dai, su. Comunque, eccolo qui, in galera, eh. Fino a 2 anni, ti rendi conto? Cioè, il Parlamento produce scartoffici, cioè, e si discute saluto di queste cose. Ma per te, scusa, sul chi fa il saluto romano ha ragione. In galera chi fa il saluto romano? Come in Germania, apologia. Vabbè, di fascismo e di nazismo. Via, fino a chiuso. Chiuso. Dove andiamo? Massimo da Perugia, vai. Eccoci. Dimmi, sentivo, vai. Sentivo che Parenzo metterebbe in galera tutti quanti. Se no, fosse per lui, non tutti, anzi. Parenzo vuole mettere in galera chi fa il saluto romano. Guarda, è una cosa proprio in galera, no, però i servizi sociali sì. Sì, tutti in galera. A parte che galera. Mi segnalano che in Germania non si va in galera. Mi segnalano che in Germania non si va in galera. Ma comunque lasciamo perdere. Ci sono delle sanzioni pesantissime, credo. Comunque, Germania, il problema fondamentale è uno, ed è molto semplice, che io sono per la libertà assoluta di pensiero, anche però, di cose estreme. Fare a meno che non ci sia l'incitazione. L'incitazione delle camere a gas, sono altre cose. Non è ma simpatico. Non è l'apologia delle camere a gas, è una cosa. No, comunque l'apologia, no, l'apologia è una cosa. Dire le camere a gas non sono mai esistite, o le camere a gas servivano, sei un criminale, un cretino, un imbecille. Ma l'imbecillità non si processa, non si porta in tribunale l'imbecillità. Beh, e mi pare evidente, no? Anche perché la dai propaganda, vabbè, per l'odio, sì. Vabbè, allora Massimo, di che volevi parlare? Comunque volevo parlare di un argomento che sta molto a cuore a questa trasmissione, cioè le mignotte. Le se mignotte, uno ottimo. Va, secondo me, uno va a mignotte non tanto per andare a mignotte, ma quanto per andare via, dopo che è finito, a parte che l'istinto umano al di no, là. No, ma spiegami questa cosa, non ho capito bene. Cioè, uno va a mignotte per quale motivo? Quando uno ha finito, non vede l'ora di tornare a casa, le proprie mogli, le proprie famiglie. Ma quando uno ha finito cosa? Di lavorare? No. Quando è finito l'amplesso? Quando è finito l'amplesso con la tua signorina, quello che è? Basta, perché il problema fondamentale del maschio italiano cosa sono? Le coccole, parliamoci chiaro. Allora? Le coccole. E allora dopo che abbiamo fatto, l'uomo deve star lì a carezzare la moglie. Noi vorremmo, è una grande rottura di coglione, su, parliamoci francamente. Noi vorremmo star lì col telecomando, guardate, diceva, fumasse la sigarettina. Invece bisogna star lì rilassati, abbracciarla, la coccolina, il bacio. Una rottura di coglioni in mani, però non si può dire perché se no, uno dice una cosa hai ragione, caro Massimo, questo ma è condiviso. Non so che mondo è condiviso voi. Quello che perché dice Massimo, lei non si può fumare una sigaretta che e vedere un film, ma quello che dice Massimo no, è, sì, con, è condiviso dal 90% delle persone. Chimicamente l'uomo e la donna sono diverse. Sì, però ci sono dei studi scientifici, non so chi cazzo di scienziati fa questi studi, però hanno però fatto, ci sono. Hanno fatto dei studi. L'uomo proprio c'ha un calo della libido, il nulla. La donna invece si comincia, si appiccica. Io vedo una cosa insopportabile. Purtroppo è successo anche a te, no? Ma sì, scene tristissime. Cioè, dopo un po', Massimo, sì. Si è detto tutto. Dopo un po' di anni, per me mesi, per te, anche mesi. Si è detto tutto, sì. Ha fatto tutto, ma sì. Che devi dire? Che sì. Te devi raccontare la sera? Niente. No, che ti devi raccontare? Infatti, io c'ho una proposta, io pagherei uno che dopo che ha finito mi facesse le coccole, un signore, una persona, che dopo che è finito sta lì, la carezza, la coccola, senza fare niente, chiaramente, cioè. Sì, soltanto sì. Carezze sui capelli, ecco. Ma non ho capito, a te che è successo dopo? Che non hai potuto più e che hai fatto? Hai cominciato ad andare a mignotta? No, mi metto lì, fingo, che vuoi fare? Purtroppo... Fingi, ma... Sì, però che brutta cosa fingere, che brutta cosa. Cominciano le pippe, che cosa c'hai, come mai? Dopo, allora, per evitare questo, stai lì, la carezzina, il bacetto, però è una roba di coglioni, credo. E perché non molli? Perché non tagli? Ma no, perché l'altra è uguale, la prossima è la stessa cosa, non è quella lei in quanto tale, è la stessa cosa quella successiva. Ma sta vivendo un dramma, vai a vivere da solo come ho fatto io, scusami. Bravo, ma tanto è proprio. Cioè, se uno la vive così, per esempio, Parenzo non la vive così. Cioè, esatto. Parenzo è uno che cui piace proprio il rapporto di coppia, eccetera, eccetera. Poi anche lui si romperà i coglioni prima o poi. Parenzo è uno che si fa la trombatina dei 3 minuti la sera col pigiamino a righe. Qual è la tua visione, Massimo? Qual è la tua visione? Quel pigiamino, sì. Sai, di seta bianca, sì, blu. Di seta, bravo. Sì. Sì. Esatto, la sì. Camerina, tutta la luce, tutto preciso, no? E poi? Tira sulle copertine, la trombatina di 3-4 minuti, sì. Poi 3-4. Il bacetto, poi giù coccole a tutto gas. Questo 3-4 minuti, questo è quello, sì, che auspica sua moglie, sì, diciamo, visti i risultati. Però, caro Massimo, 3-4 è il desiderato di sua moglie nei suoi confronti. Ma guarda che 3-4 minuti è tantissimo, comunque. Sì, appunto. È abbastanza 3-4 minuti. Bisogna dire che 40 secondi nel caso di Massimo da Perugia, però perché è minimo in quel momento, però non importa. Ma che poi mi sta anche simpatico, Parenzo. Sì, anche a me, Massimo, moltissimo. Ma scusi, ma se lui ha questa visione di te, io l'accetto con piacere, con ironia e con piacere. Perché quelli che da ragazzo sulla classe prendevi, davi la scoppoletta, e quel genere lì, capito? Perché sono bravi ragazzi. Però, capito, ma l'alternativa, però, adesso lasciamo perdere Parenzo. L'alternativa qual è nella tua vita? Qual è? Le prostitute, te l'ha detto? No, ma non lascia perdere il caso personale. Ma le prostitute ti ha detto? Allora, caso personale, qui stiamo parlando di casi personali, se no. Parlo di me. L'alternativa non c'è. Perché purtroppo io lo faccio capire, io lo dico che le coccole non voglio rotture. Sei andato a puttane ogni tanto? Pensa quando torna a casa questo stasera, se per caso la moglie ha sentito. Perché la prostituta, cioè, parliamoci chiaro. Pensa alla festa che ti fa col mattarello quando torni stasera, guarda. Mattarello, sarebbe meraviglioso. Ma perché stai mattarello, stai cazzando? Mattarello, modo di dire. Pensa a te, ma quando metti la chiave nella toppa, vabbè, di casa, e dallo sguardo capisci che la moglie di Massimo da Perugia ascolta la Zanzara, ti guarda e ti dice ma tanto guarda, Davide, che pensare a un'altra donna, pensare anche è uguale, è la stessa cosa. Massimo che mette la chiave nella toppa, apre e vede lo sguardo della moglie, bellissimo. Moglie, compagna, appunto, quello che era, la tua signora, sì, quello, sì, che ma non è questo il punto, l'essere umano, noi siamo animali, su, mettiamo i vestiti, ci vestiamo, ci abbiamo l'educazione, la religione, ma siamo animali, gli animali che c'hanno delle pulsioni, Parenzo, tu è inutile che cerchi di frenartele con tutte le tue io le ho, ma non le metto, non le dico alla radio, ma le ho, e come? Ah, ecco, allora che cazzo fai se le dice alla radio, che se fai le? Ma niente, ci tiene alla sua reputazione, non alla privacy, non ha capito ancora come gira. Vabbè, ciao Massimo, ciao. Allora, caro David, io proverei a chiamare l'avvocato Mongiu. L'avvocato Mongiu è l'avvocato della famiglia dell'albanese ucciso da Sicignano, quello che io voglio presidente della Repubblica, signor Sicignano. perché l'avvocato Mongiu potrebbe essere una persona interessante. L'avvocato Mongiu, ci ho parlato brevemente al telefono questa mattina, ma siccome potrebbe essere interessante, perché voglio capire dove vuole arrivare. Vediamo. La difesa di uno che voleva rapinare ed è stato ammazzato, che vuole ottenere, cosa vuole ottenere la famiglia dell'albanese che dice che quello ha avuto una reazione esagerata, che in realtà una cosa è rapinare, un'altra è uccidere. Questo lo sapevamo già, grazie di avercelo ricordato, ma lo sapevamo già grazie al cazzo, come direbbe qualcuno, per cui è evidente che una cosa è rubare, una cosa è uccidere. Però se tu rubi, quello non sa cosa potresti fare. Se tu entri in casa, potresti stuprare, eccetera. Dunque uno reagisce e spara. Avvocato Mongiu, vediamo, cerchiamo di beccarlo, dai. Sì, pronto? Avvocato Mongiu? Sì. Buonasera, sono Cruciani, Radio 24, salve. Buonasera a lei. Come sta? Bene, bene. Senta, lei difende il ladro albanese ucciso dal pensionato di Vaprio Dadda. Lo ha visto in televisione siciliano in questi giorni? Sì, mi ha colpito in particolare in la trasmissione di Giletti, mi pare che... Sì. Sì, l'arena, sì, l'arena. L'arena, ecco, perfetto. In che da che cosa è stato colpito? Quella certa esuberanza, per usare un eufemismo del signor Siciliano. Cioè, le è apparso un po' fumantino, non so, fuori dalle righe. Sì. Tant'è che, non vi nascondo, che ho già predisposto un'istanza rivolta al pubblico ministero perché promuova un incidente probatorio. Cioè? Nel senso che chiede al GIP di poter disporre una perizia sul signor Siciliano. Scusi, una perizia di che tipo? Una perizia psichiatrica, perché da una perizia potrebbero emergere delle note caratteriali che possono contribuire a ricostruire le reazioni del signor Siciliano in quel momento. E dunque lei pensa che lui sia, che abbia delle, che ne so, dei problemi mentali? Caratteriali. Perché lei dice problemi caratteriali? Perché le è apparso troppo irascibile? Particolarmente esuberante, e soprattutto questa particolare esuberanza emerge nel momento in cui la si confronta a quello che è stato l'atteggiamento del benzinaio, signor Stacchio, che lui stesso si vide costretto a sparare, ma in ben altre circostanze. Cioè lei dice Stacchio è meglio, cioè si è comportato meglio di Siciliano? In maniera certamente non esuberante, nella maniera in cui a torto o a ragione hanno ucciso una persona. Cioè tutte e due hanno ucciso una persona, però l'atteggiamento di Stacchio come lo possiamo definire? Più? Tra virgolette più umano. Lei da chi è stato nominato, avvocato? Sono stato nominato dai genitori attraverso la procura che è stata conferita ad un parente del morto, un cittadino ovviamente albanese, quasi ormai italiano, perché da 11 anni svolge attività lavorativa regolarmente in quel di Firenze. Lei come giudica il Gherghi Ghioni, cioè il 22enne albanese colpito a morte dal pensionato di Vaprio Dadda? Come lo definisce? Allora, non è stato mai mio cliente, quindi non lo conoscevo, e quindi non posso giudicarlo se non come persona che fino ad oggi, per quanto è emerso, era persona che aveva tentato un furto. E aveva anche dei precedenti, cioè lo possiamo definire tranquillamente un ladro, un delinquente? Un delinquente abituale, o no? Ma delinquente abituale non posso definirlo tale perché non conosco i precedenti, a parte il fatto che la delinquenza abituale tecnicamente deve essere dichiarata dal giudice, comprende? Sì, quindi, no, ho capito. Cioè... Diciamo che fosse persona che non viveva nell'osservanza rigorosa della legge. Qual è l'obiettivo della sua difesa? Ottenere eventualmente un risarcimento? No, le dico subito. L'obiettivo innanzitutto, i genitori interessa sapere come si sono svolti. La dinamica. La dinamica, è d'accordo, quello interessa a tutti. Quello interessa a tutti. E poi? Poi successivamente, è ovvio, se dovessero emergere responsabilità in capo al... e accertate responsabilità in capo al Siciliano, è ovvio che è una conseguenza che verrebbe avanzata richiesta di risarcimento danni, è ovvio. Senta, io le voglio dire una cosa, in televisione ha visto qualche politico scatenarsi in questi giorni? Per esempio Salvini l'ha visto? Sì, dottor Cruciani, è stato così gradevole parlare con lei, con il dottor Parenzo. Voglio un giudizio da parte di una persona. Ma che... perché inquinare con Salvini, effettivamente? Ricorda anche quell'altro politico che si è presentato. Politicante, ha detto. Con politico, è un, stato un refuso, un lapsus. Ecco, appunto, un lapsus. Lapsus lì. Buon anno, con sì. Con la pistola. Sì. Con la pistola. Quindi. Come ha trovato questa cosa? Sgradevole. Quanto meno sgradevole. Quanto meno sgradevole. Da sanzionare, o no? In qualche modo. Moralmente. Cioè, secondo lei è degno di rappresentare gli italiani al Parlamento europeo? Non sarebbe il solo. Scusi, avvocato, ma il fatto che il morto sia albanese rende questo caso più eclatante dal punto di vista mediatico? Oppure no? È anche più complesso per chi deve difendere? Le dico subito, le rispondo, non ho problemi a risponderle. Proprio quei soggetti di cui lei parlava poc'anzi, che ha evocato lei poc'anzi, rendono il caso eclatante. Vabbè, questo si sa che è eclatante di per sé. Cioè... Rendono il caso spigoloso. Per alcune frange politiche certamente ci sono differenze. A mio avviso l'intervento di certe forze, o meglio di certi esponenti di alcune forze politiche, stanno creando, fomentando il caso. Ecco. Va bene, avvocato, grazie, arrivederci. Buon lavoro, buon lavoro. Saluti, buon lavoro, grazie. Ragazzi, va bene tutto, però la perizia psichiatrica, dai, su, adesso. Ha spiegato perché. Sì, vabbè, ho capito, vai. Ma non si può chiedere la perizia psichiatrica perché tu vedi in televisione uno, è un po' esagitato, perché è un po' esagitato, non c'è dubbio, ma ha tutto il diritto ad essere esagitato. E chi lo critica anche oggi con lo snobismo sui giornali? Ah, aveva detto che non voleva andare in televisione, adesso ci va come se fosse un delitto, no? Non gli darei nemmeno. Non è un delitto, non gli darei ovviamente. Nemmeno una no, che ha detto? No, ma tu capisci non che non è un delitto, ma sì, se ma uno questo ci va, snobismo di confronti di uno come tutti noi che non è ritenuto all'altezza, persone, capito? No? Sì, ma perché infatti uno può giudicare? Ma no, chi lo ritiene non all'altezza? Che uno che non ragiona in modo raffinato, e chi se ne frega che non ragiona in modo raffinato? Dice delle cose. Sicignano va messo al Quirinale semplicemente per un motivo. È una provocazione. Ma c'è certamente una provocazione seria, però. Perché ragiona in maniera. Vabbè, allora mandassero solo quelli che dici tu. Mandassero solo quelli che dici tu. Ma io figuriamoci, ma che perché ragiona in maniera molto più concreta di molti politici. Io l'ho sentito molto in questi giorni, al di là delle invettive, dici? Delle incazzature. Ragiona su un problema concreto. Vabbè, allora hai ragione tu. Ma è un livello di demagogia assurdo. Va bene, demagogico. Finalmente hai detto una cosa. Una persona Siciliano che... fa demagogia. Benissimo. No, ma finalmente tu fai demagogia candidandola addirittura. Perché non hai il coraggio di dire a quello là che è demagogico. Non hai il coraggio. Non è che non ho Alessandro il coraggio da Cremona, è che dai. Non mi sembra elegante. Non mi non sembra il caso. È una persona che comunque ha ucciso, quindi si sentirà, quindi mi va di sottoporlo, come dire, a Alessandro da Cremona. È un signore che sta subendo un'indagine, che sappiamo. Ha subito un tentato furto. Quindi è una persona che in questo momento sul quale io sospendo il giudizio, non è che posso dire sospendo che sospendo il giudizio. Sì, no, ci sono pubblicità, cioè, dopo questa cosa non pubblicità. Ho l'entusiasmo, ti prego, pubblicità, che hai tu ti prego. Nel volerlo sospendo candidare il giudizio, a Quirinale. Sospendo il giudizio e merita la pubblicità. Populista, perché ti piace la sospendo, gente che ti chiama. Sospendo il giudizio, no, merita veramente la pubblicità. La gente che ti chiama e dice "Ma non ho più niente da dire su questa cosa, su merito e su sospendo il giudizio, merito veramente va la pubblicità." E poi ricominciamo con un'altra cosa, dai. La zanzara è come una droga, quando non c'è ti manca. La zanzara. Ciao Giuseppe, ciao Parenzo, mi sentite? Vi voglio bene, siete la mia compagnia di ogni sera. Allora ragazzi, se avete commesso reati per più di 10 anni, se avete commesso reati per più di 10 anni, vari reati che si sono accumulati nel tempo, se siete stati condannati con sentenza definitiva a circa 12, 13, forse 14 anni di galera, poi ridotti a 9, eccetera, eccetera, non vi fate problemi, non vi angosciate, non vi buttate giù, non pensate che è tutto finito, che la vita che non c'è più speranza nella vita, eccetera. Perché tanto potete uscire tranquillamente, soprattutto se siete appoggiati da una certa lobby giornalistico-mediatica. È il caso di Fabrizio Corona, il quale ha commesso diversi reati sui quali non entriamo, non giudica, eccetera, e che oggi torna a casa. Perché questa è la notizia arrivata pochi minuti fa. Fabrizio Corona ha ottenuto l'affidamento ai servizi sociali sul territorio, ossia potrà lasciare la comunità di Don Mazzi, dove peraltro, come sappiamo, faceva il cazzo del comodo suo, perché faceva sostanzialmente quello che faceva prima, cioè il suo lavoro, e tornare a casa, affidato appunto ai servizi sociali. Cioè, sostanzialmente, farà qualche lavoretto così, tipo Berlusconi, no? Andrà da qualche parte, farà qualche lavoretto per due ore, non farà un cazzo, e dopodiché sarà libero di fare quello che vuole. Per carità, sono contento, ogni uomo libero è un... dipende che uomo, naturalmente, però se uno ottiene la libertà, secondo la legge, Parenzo, va bene, per carità. Però qualche domanda bisogna porsela poi su come funziona, sì, la giustizia in Italia, no? Sì, va bene, ma dopodiché dai, anche ragazzi, qui dipende dai reati, se commetti, sì, reati ma di sangue... Va benissimo, no, a parte che escono anche quelli. Cioè un corona... Vabbè, per te è normale che corona vada a casa oggi? Ma non dico, è normale, va bene. Questo. Per me è normale che un criminale sconti la pena. Io non ho detto che è un criminale, Uno che commette un crimine è criminale, ma poi si può, noi giochiamo con le parole, dici delle robe terribili. Usiamo le parole che vanno usate. No, ma uno che commette un crimine negativa è un criminale è diverso. Criminale. Comunque, bene, allora adesso mi fai tu l'insegnamento del politicamente corretto. Guarda che è incredibile. Ogni tanto quelle sì. porcate inenarrabili. Poi c'è molto secondo dice te. Secondo la parola, te. Beh, insomma, sì, la parola criminale. Comunque, un signore che ha commesso quel tipo di reati, se ha scontato una parte della pena, trovo più utile anche per la società che faccia dell'altro e che si reinserisca facendo dei lavori socialmente. Questo è un altro di quello parlo. Socialmente utile, è più utile che stia lì piuttosto, ragazzi, che in galera. Ma quanto dovevano durare? In galera questi... ci vanno quelli che fanno reati di sangue. Ma almeno resti da Tommazzi un paio d'anni. Ma è durata 4 mesi sta farsa, certo, di Tommazzi, adesso insomma, a casa. Non faccio barricate su Corona, va bene. Infatti è una persona che ha commesso dei reati, dubbiamente condannata. Vada a casa e lavori a casa, faccia delle robe utili. Su. Vai Giovanni da Torino, 800 24 00 24. Vai Giovanni. Ciao Cruciani, ciao Parenzo. Io volevo parlare del Rom che è stato ucciso così qualche giorno fa, però stando in linea con voi, visto che parlavate di carne e di insaccati, no? E quindi volevo solo fare una provocazione: ma se la salsiccia è fuori legge, vuol dire che da domani dovrà andare in giro con la maschera di Zorro? Un po' questa la cosa. No, ma la cosa incredibile è che addirittura dicono che è come l'amianto, cioè nella classificazione dell'amianto, cioè non la carne, le salsicce, no, vabbè, sono come l'amianto, quando fanno le classifiche, come dicono, se ti fumi 4 sigarette, sì, sì, è come se, adesso non, quindi dico una stupidaggine che non è provata, sì, ma quelli che ti dicono ti fumi 5 sigarette è come se tu passassi un'ora dentro una macchina con del gas, no? Alle volte fanno ste statistiche per paragonare, sì sì, certo, dire, mettono insieme alcune cose, le dimensioni, va bene, alcune, esatto, categorie, però esatto, adesso paragonare come è stato fatto l'amianto alla cosa, alla salsiccia, agli insaccati eccetera, è vero che in America sugli insaccati si potrebbe discutere a lungo eccetera eccetera su come vengono fatti, ma non voglio aprire qui la discussione, ma insomma fare questi paragoni mi sembra una follia. Dopodiché poi ci sono degli studi scientifici eccetera eccetera, per cui va benissimo anche questo, per carità. Io continuo a essere molto molto scettico, molto. Chi era Giovanni, chi c'era? No, sì, no, volevo a parte questo che mi è venuto in mente, vabbè, allora parlando del Rom che è stato ucciso, volevo solo raccontare brevissimamente una cosa che mi è capitata tanti anni fa. Dopo uno scherzo che ho avuto con un gruppo di ragazzi per la strada, questi hanno fatto un dispetto a un amico mio, così invece di regargli la macchina ha fatto che dargli fuoco. Dopodiché il padre, che faceva l'operaio, scende in cantina e dentro uno straccio nascondeva all'insaputo di tutti una pistola. Consegnandola all'amico mio, gli disse: meglio scroscio di catene sono di campane. Sì, vabbè, è quello che abbiamo detto prima, dai, è meglio un cattivo. Esattamente, esattamente. No, cosa, è tre giorni che lo ripetiamo, però ce lo disse una volta, sì, Feltri, no, qui in diretta, parlando di è meglio un brutto funerale, sì, che una cosa. Com'era la storia? Sì, sì, ma la cosa curiosa è che questo mio amico si è beccato 30 anni per omicidio. Omicidio per che cosa? Scusa, non ho capito. Ha ammazzato una persona. Sì, ha ammazzato una persona in che contesto? Cioè, insomma, vai più nei dettagli, però. Un contesto privato che non c'entra nulla col discorso. Di... Vabbè, allora quello è un altro discorso, però, scusa, mica ha ammazzato un ladro, sì, oppure ha ammazzato uno che lo voleva rapinare. No, scusami, no, Giovanni. No, assolutamente, assolutamente. Però la frase indica. Vabbè, quindi, Giovanni, ciao. Alessandro Cremona, vai, non c'entra nulla. Alessandro Cremona, ecco, vai, nulla. Buonasera. Dimmi. Buonasera, Cruciani, buonasera, Parenzo. Allora, io, ecco, Cruciani, voglio fare una risata perché le vegane fanno l'ingoio. Le vegane fanno l'ingoio, amico mio, è un problema che ci siamo posti nei mesi scorsi, ed effettivamente per i vegani potrebbe essere un problema se ci sono sostanze animali. No, comunque questo qua non è il tema che volevo cogliere. Beh, il tema, il grande tema di Alessandro da Cremona sulle vegane e le pratiche sessuali. Terribile, perché voglio metterci la faccia. Allora, vuoi metterci la faccia? Dunque? Sì. Dunque, volevo dire al dottor Parenzo, di togliermi una curiosità, ma come considera la proprietà privata? Come considera la proprietà privata? Mi sembra una cosa, credo che la consideri sacra, come tutta... come... Assolutamente, come garantisce la Costituzione e la legge sulla legittima difesa, che se mi tocchi la proprietà privata, non la legittima difesa. Allora cosa chiedi? Non ho capito. L'inviolabilità della legittima difesa è un valore assoluto da tutelare. Ma no, questo mi sembra scontato, no, Alessandro. Sì, sembra scontato, però allora se tu sei d'accordo su... Lui pensa che ci debbano essere, credo, perché non abbiamo ascoltato nulla nei giorni scorsi, che ci debbano essere dei limiti nell'uso delle armi. No. La legge di oggi già nel 2006 quello che pensi tu, la legge non me la devi spiegare tu, perché la sappiamo. Penso che la legge fatta da Castelli della Lega Nord all'epoca nel 2006 dal governo Berlusconi sia una buona legge sulla legittima difesa e che tutela la proprietà privata oltre che la persona. Non va fatto null'altro. L'hanno già fatta nel 2006 il centrodestra. Mi pare una buona legge. Pino d'Arezzo. Pino? Comunque la cosa più bella che circola oggi è questa sui vegani, sulle salsicce, salsicce. Vabbè, io sono cacciatore, non ci volevo entrare. Aspetta, Pino, c'è una foto di Rocco Siffredi in cui colui che parla, no, col dito puntato così, non tutte le salsicce sono cancerogene. Vai, Pino. Ha ragione, e questo direi che ha ragione. Vabbè, questa è scontata. Ma a parte questo, guarda, sulle vegane potrei dire tante altre cose. Che vuoi dire sulle vegane? Scusa, spiegami. Ma queste, allora io ne trovo tante, queste intellettuali, vegane, eccetera. Ma voi ne trovate tanti? Io non conosco, ne conosco poche. Io ne conosco 4-5. Divertente, intellettuali vegane. Beh sì, allora, certo, il veganesimo è una roba da ricchi, su questo non c'è dubbio. Cioè che il veganesimo e il vegetarianesimo è una roba da gente... Ma non credo proprio. Una roba da gente arricchita, da gente che se lo può permettere, da gente che c'ha da pensare dalla mattina alla sera, non a fare la spesa al supermercato, all'esse lunga, eccetera, ma può scegliere. Ci sono persone che lo fanno per intolleranza alimentare. Poi c'è gente che lo fa per altre cose, ma non stiamo parlando di cose scontate, stiamo parlando di cose, cioè è chiaro che qualcuno lo fa per intolleranze alimentari, è chiaro che qualcuno lo fa per scelta. No, ma è divertente con disprezzi, cioè gli intellettuali, ma lo diceva sono Pino, vegani, ma è una stupidaggine assoluta. Vai Pino, allora? No, ti dico questo, cioè questa qui è gente che non che vanno avanti con un'ideologia, per cui si sarebbe estinta. Vanno avanti? Con un'ideologia, con delle idee che avrebbero estinto la razza umana. Ah, sicuro? Sicuro, se uno non ammazza animali siamo morti. Non c'è dubbio. Ma stiamo scherzando. Ma comunque guarda, io volevo più che altro a Parenzo dire la questione. Dimmi. Sulla legittima difesa. Sì. Un attimo, un po' di esperienza di anno. In Italia l'onere della prova è dato alle vittime, non agli aggressori. Cioè sei te che devi dimostrare che hai usato uno strumento e una proporzione di violenza tale. Allora, sì, spesso è così, proprio così. Non le faccio nessuna lezione perché non è forum, non è niente. Ma lei sa che il pubblico ministero, lei sa che quando vengono fatte le indagini, in fase di indagini, vabbè. Con tutto rispetto, lei sa che quando vengono fatte le indagini, se vuole le dico, ma se vuole non glielo dico. A quello gli fanno il sedere. No, guardi, in fase di indagine, mi ascolti vegano, mi ascolti amico mio, in fase di indagine è obbligo di chi compie le indagini trovare tutte le prove anche a discolpa del cosiddetto indagato. Ma lo sappiamo che è così, il problema è un altro. Pino sta dicendo un'altra cosa, che anche spesso le prove a discolpa dell'indagato. Anche quello, certo, però non succede allora spesso. Non succede spesso. E Pino vuole dire un'altra cosa, non le cose ovvie che il magistrato fa le indagini, eccetera. Allora cosa Pino vuole dire cambiare? La realtà. No, il magistrato fa le indagini, deve trovare anche le prove a discolpa dell'indagato. Ma pensa che qui siamo a una discussione. Che cosa volete sul codice penale? Domanda, è incredibile. Pino ha detto un'altra fatto. Cosa: ha detto che di fatto cos'è che succede? Che non sei che tu, uno si deve difendere. No, che non sono loro a dover trovare le prove, ma sei tu che ti devi discolpare. Sei tu che devi trovare le prove a tua discolpa, perché spesso è quello che accade nella realtà. Questo vuole dire Pino, giusto, Pino? Perfettamente. È inutile che tu gli dici secondo il codice non è così, perché ce ne sbattiamo i coglioni, perché è evidente, che è così. E quindi come volete cambiare la roba? Non ho capito. No, ma lui sta dicendo una cosa. Lascia stare, perché poi le cose. Ma lui non vuole farlo per cambiare una cosa. Se la dite vuol dire che è sbagliata, no? Posso dire una cosa della vita? Dimmi Pino. Reale? Dimmi. Allora tu sei in Italia, ti vuoi difendere, devi tenere una pistola pronta. La persona che entra in casa gli devi sparare e lo devi uccidere. Sì. Devi avere un qualcosa che non sia riconducibile a te da mettergli in mano. Così te la cavi. In altro modo ti faranno comunque il sedere, più o meno. Ma a te è successo qualcosa? O è successo a qualcuno che conosci? Io sì, è successo che io ho un porto d'armi per cui posso comprare le armi che voglio, sì. Ho 3 fucili da caccia, sì. ho pensato a queste cose e ho fatto una scelta di metterle in un garage che è distante dalla casa, chiuse in una camera. Così non hai la tentazione di prenderle e dunque di passare i guai dopo. Informo Pino d'Arezzo. Ma lui lo sa benissimo. Pino d'Arezzo che anche James Bond al servizio segreto di sua maestà sta sotto la giurisdizione di M e di Q. Tanto per parlare di un film popolare che uscirà tra poco. Anche 007 licenza di uccidere può uccidere, ma è sottoposto al controllo di sua maestà. Hai fatto l'esempio sbagliato, però, molto no, bello. Era una battuta. Ma reale, diciamo. Vabbè, anche ciao, 007, ciao, caro ciao. 00 Pino. Pubblicità. Pubblicità. La zanzara. Intanto la Federcalcio, a proposito dello scoop, chiamiamolo così, realizzato dal sottoscritto, dal sottoscritto oggi, con l'incontro Giraudo Tavecchio in un albergo di Milano, dove io ero casualmente. Per caso, perché tu eri lì per farti. No, per fare nulla, ero lì per caso, anch'io per incontrare una persona. Io ero lì. Per amoreggiare. No, attenzione, io ero lì per incontrare una persona. Loro invece sostengono. La persona non ha i fini di lavoro. Beh, sì. Certo, a fine di lavoro una persona che mi risulta di cui non diverso, posso fare il nome. No, ma come si può fare il nome? No, ma non posso fare il nome della persona perché è una persona che non c'entra assolutamente nulla con questa storia. Non capisco perché devo fare il nome di tutte le persone uomo che uomo, donna. Uomo, assolutamente uomo. Allora no, quello uomo. Che hanno detto, è vero? No, allora, dico solo una cosa: la Federcalcio dice l'incontro c'è stato, vabbè, quello è chiaro, ci stanno le foto. Ma nessuna trattativa, solo un caffè alla luce del sole in un albergo in centro di Milano. Punto. Questo è vero, cioè albergo al centro di Milano, il caffè può darsi. Però lì c'è anche un virgolettato di frasi estrapolate. No, frasi estrapolate, frasi che ho sentito, cioè non frasi estrapolate. Che hai orecchiato, insomma. Sì, assolutamente, orecchiato, esattamente, proprio così. Questo io non è che faccio il barbiere, cioè faccio no, certo. Il punto fondamentale è che vogliono far credere non che hanno smentito quelle frasi, però questo è interessante. Sì, non entrano nel dettaglio più che altro, non è che non hanno smentito. Sì, è vero, non hanno smentito. No, da quanto leggi tu adesso, io l'ho letto tutto stamattina quando no, dicono che cosa. Non c'è stata nessuna trattativa, non c'è stata però nessuna. Però non smentiscono le frasi. Vabbè, che tu hai riportato tra virgolette. Non sono andati nel dettaglio, non sono andati. Dicono che non c'è stata curioso, nessuna trattativa. No? Comunque. Perché loro sanno che tu potessi avere ragazzi, la registrazione. L'incontro casuale in un albergo, dai, su. Adesso va bene tutto, ma l'incontro casuale tra due, uno si chiama Giraudo, radiato da Calciopoli, dalla Federcalcio, e l'altro presidente della Federcalcio, va bene tutto, per carità, sarà stato anche casuale. Però non ci crede nessuno, Ragazzi, ci siamo persi nei giorni scorsi questa roba meravigliosa dalla D'Urso. Mentre voglio lanciare un grande referendum, un grande consulto tra gli ascoltatori, tra il popolo della zanzara. Secondo voi, quando Corona sarà libero, tra qualche giorno, magari anche oggi, dove andrà? In quale trasmissione televisiva andrà per la prima volta? Risposta molto semplice, però vi lascio 3 opzioni possibili. Numero 1, dall'amico Del Debbio, che pare voglia candidarsi contro Renzi nel 2018 o nel 2017, quando sarà, tra l'altro, non più sindaco di Milano, grandi ambizioni, fa benissimo, per carità. Quinta colonna di Del Debbio, prima opzione. Seconda opzione, Arena di Giletti. Bisogna vedere i rapporti del signor Giletti e Corona, non credo che siano buonissimi. Terza opzione, che è quella, insomma, che caldeggio io, no? Che caldeggio, che penso che sia la naturale conclusione di questa vicenda, Barbara D'Urso. Da Barbara D'Urso, però, tra parentesi, per me è la numero uno, al di là di alcuni scivoloni che ci possono essere. Andrà nella vita. Nelle stesse trasmissioni dove è andato Sicignano. Sì, assolutamente. Quindi, quindi la risposta è A, B e C. No, cioè, secondo me no. Tutte e tre. No, vedrai. Innanzitutto farà 2-3 volte proprio così, con tutta la famiglia, la madre, eccetera. A cosa? A domenica live, al pomeriggio 5, quello che è. Ma sicuro al 100%. Nei giorni scorsi, grande battaglia, non so in quale danza, domenica, il pomeriggio, sempre dalla D'Urso, tra Cito, ma te lo ricordi Cito? L'abbiamo intervistato pure noi. Come no, ma certo. Che si incazzava come una bestia per il fatto che gli hanno tolto il vitalizio, condannato più volte. Lui dice che non è stato condannato per associazione esterna mafiosa. Invece io credo di sì. Ragazzi, da qualche parte dovrà uscire fuori questa cosa. Lui dice di no, ma in realtà è stato condannato per concorso esterno in associazione mafiosa. Comunque, signor Cito, combatte a Quinta, sì, a Dalla Duzzo. Quando è nato questo episodio del concorso esterno? Perché bisogna dire a quel signore che ha parlato che dovrebbe andare a scuola. Guardi, per il semplice motivo. Il 9 dicembre del 1997 lei è stato condannato per la situazione ma sia zitto di mafia. E si metta la museruola. No, è verissimo. Sia zitto, ignorante, un giornalista, ignorante, lei non lo dice. Mi fa parlare? Sì, ma usi allora, altri toni. Usi altri toni. È vero o no che il 9 dicembre del 1997 lei è stato condannato? Sentiamo ancora Cito, il quale tenta di giustificarsi, perché da un certo punto di vista ha ragione, eh? O tolgono il vitalizio a tutti, oppure questa follia di toglierlo a quelli condannati sopra i due anni è una cosa ridicola. Traffico. Traffico, il traffico è il problema. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta La Zanzara. Il signor Cito è un personaggio che tutti conosciamo, non lo amo particolarmente, ha avuto delle condanne, delle riabilitazioni, delle cancellazioni, da quello che ci risulta, l'abbiamo detto più volte anche quando l'abbiamo intervistato, è stato condannato anche per concorso esterno, lui dice di no, un casino, bisognerebbe andare a controllare nel casellario giudiziario, comunque è stato cacciato dal Parlamento, anzi no, è stata tolta la pensione, il vitalizio, perché è uno di quelli condannati a oltre due anni, cioè... è stato tenuto il vitalizio, che ne so, per Sgarbi, Cirino Pomicino, eccetera eccetera, e invece De Lorenzo, Cito, Di Donato, gente che voi non conoscete neppure, soprattutto quelli più giovani, gente della Prima Repubblica, sono stati puniti con il vitalizio tolto. Ad alcuni serviva pure per campare, per esempio Di Lorenzo, ma chi se ne frega, uno potrebbe dire, anch'io dico chi se ne frega. A Cito forse un po' meno, perché qualche soldo magari ce l'ha, però ha ragione lui alla fine, cioè o lo tolgono a tutti oppure questa follia che hanno fatto, e spero che perdano in tribunale, cioè che il Parlamento perda in tribunale, non so con chi hanno fatto causa questi qua, spero che perdano e che finiscano per toglierlo a tutti, o lo togliete a tutti o a nessuno, questa discriminazione folle che hanno fatto è ridicola. Cito: mi hanno rifilato 4 anni di carcere, che ho fatto i 4 anni di carcere, lo so ignorante che non sei lo so atto. Perfettamente, io ho detto ho questo, fatto guardi, i anni lei mi sta insultando allora, quando io zitto. Ho detto che lei è ignorante, stato condannato e ha fatto 4 anni di carcere. Perché lei non capisce niente. Lei ha pagato con la 4 legge. 4 anni di carcere da innocente, animale. No, mi permetto. Stai zitto! Questa è la realtà. Stai zitto, ignorante, vai a scuola! Per non parlare della vai a scuola! E la storia lo sa. Dottoressa, mi dà la possibilità di parlare e mettete la museruola a questo signore? Ma lei come si confronta con i giornalisti? Tezzi! Se stavo là, tu non dicevi una parola! Questo è bello però! Cito, mi ascolti? Sono stato assolto dopo 25 anni! Animali! Animali, siamo tutti animali. Cito? No, animali, te. Le sto dicendo, te. Chi dice che dice il contrario, Cito, un animale? Rinuncia al vitalizio, dia l'esempio. I politici devono dare io esempio. Io devo rinunciare. Io le esprimo ma vai, solidarietà se lei è stato condannato per cose in per cui non doveva essere condannato. Ma rinuncia al vitalizio. Allora, va. Un attimo. Quello che ha combattuto con Iaco, Cito era Iaco. Il mio amico Pierluigi Diaco, sì, grande, Pierluigi combattente, Diaco. Sì. Grande combattente, in questo caso grande combattente, quando tira fuori le palle Diaco, che bella cazzo, per lui, dai su, tira fuori le palle spesso, no? Non ogni tanto però. Vabbè dai, Roberto da Milano, 800 24 00 24, vai. Sì, buonasera. Sempre il busto di Hitler qui, ragazzi. Fiano, vienimi a prendere, amico mio! Vienimi a prendere! Ma la neuro ci vuole, che cazzo, Fiano. Dai, la neuro, io no, non le Fiano. Posso sopportare queste cose. La neuro ma ci non vuole. Le posso sopportare queste cazzate che vengono dette. Dai, su! Come ma lui fai? L'ha detto sul saluto romano. Ma anche. Fino a 2 anni di carcere per chi commercia in per cimeli nazisti. Il saluto nazisti. Romano. E il saluto romano, dai. Dillo anche tu che questa cosa dei cimeli è una cazzata. È una cazzata pure il saluto fascista. Ma no, anche questa roba. Il fascista dai. È giusto. Sui cimeli devo capire bene cosa. cosa prevede la norma, perché posso anche capire lui, giustamente, che rispetto a tutto questo mercato, cioè che quelle robe lì dovrebbero stare nei musei e che un matto se le mette addosso, ad esempio, i pazzi che fanno quelle parate con quei... Ma chi se ne frega, ragazzi, ma sono cose marginali, se tu gli dai importanza è tutto finito, dai Roberto da Milano, forza! Sì, allora, io voglio parlare di quella sentenza del Consiglio di Stato. Ma perché non chiami Focus Economia, scusa? Ah no, perché no, che riguarda? I culattoni. Consiglio di Stato in realtà non è Focus Economia, scusa, ho sbagliato trasmissione. Che trasmissione abbiamo su Consiglio di Stato? Qualche trasmissione? No, nel passato ce l'avevamo pure, qualche trasmissione sul Consiglio di Stato. Ci vorrebbe però un suggerimento. Fate presto, oggi ho incontrato Napoletano, il quale mi ha detto... No, ho incontrato il direttore Napoletano, il quale... Ecco, salutalo. No, mi ha incontrato il direttore Napoletano qui sotto, abbiamo avuto una lunga conversazione anche simpatica. E ho detto: ma hai sentito la limitazione che fa Parenzo? No, mai fatto. Sì, no, sì, ho sentito, se mi hanno detto, eccetera. Digli di sì, ma tranquillo, la può fare, tranquillo. Io ho fatto: fate presto. Roberto, allora vai. Allora, io volevo dire che l'Europa ci impone, ci bacchetta, perché noi non abbiamo quella legge sui culattoni che si possono sposare. Sì. Allora, io... Lo direi diverso. A me piace quando uno dice queste cose, perché è quello che pensa, in fin dei conti. Cioè, Roberto li chiama culattoni, in senso proprio dispregiativo. Cioè, non è che dice culattoni per dire omosessuali, gay, dice i culattoni, no? Io, come Dante, nel canto quindicesimo... che dice peccato medesimo al mondo lerci, e per lercio intendo talmente sudicio da suscitare ripugnanza. Cioè i culattoni sono talmente sudici che suscitano ripugnanza e addirittura schifo, ok? Un conto è Dante, aspetta. Questo... Roberto, tu ci stai dicendo che i culattoni fanno sostanzialmente schifo, e quello penso che sia una cosa, non dico diffusa, però sto dicendo che il nostro ordinamento giuridico prende spunto dalla nostra cultura. No, il nostro ordinamento giuridico per fortuna non li considera così, lerci. Comunque, come dice lei, per fortuna. Il nazismo e il fascismo, certo. Vabbè, adesso non è che c'è... Beh, quello sì. Sei fissato pure tu, eh. Non è che... No, anche il comunismo, voglio ricordare. Anche il comunismo non sovietico, ma cubano. No, anche sovietico. Quello sovietico non se ne frega. Roberto, allora? Quello cubano, ad esempio, sì, considerava una malattia. Siccome ancora nessuno aveva citato il canto quindicesimo dell'Inferno di Dante, mi sembra che sia fondata la sentenza del Consiglio di Stato, che appunto impone a tutti i comuni che hanno registrato. Ah, quella là, ma io su quello sono d'accordo. Io su quello sono d'accordo sul fatto che i comuni che registrano le coppie omosessuali, anche se vogliono fare una sfida mediatica, eccetera, ci sta pure. Però è giusto anche che poi vengano condannati, cioè nel senso che venga cancellata questa cosa, perché non esiste finché non esiste una legge nel nostro ordinamento, secondo me va fatta, i comuni fanno una disobbedienza civile, ma che disobbedienza su una cosa concreta, in si questo caso, disobbedienza, ma non c'è nessuna civile, disobbedienza, cioè, perché non c'è la legge. Su un diritto che non c'è, quindi loro su questo fanno una cosa che chiaramente è soltanto di facciata, evidente. Roberto, allora perché sono lerci, però, al di là del fatto della sentenza che non ce ne frega niente, perché sono lerci gli omosessuali? Lerci perché, come dice Dante, macchiano di un peccato immondo. Si macchiano. E quale sarebbe il peccato immondo? Scusami. Il peccato immondo è quello di avere dei rapporti sessuali con un soggetto dello stesso sesso, cioè succhiare l'uccello fra maschio e maschio, oppure infilare l'uccello dentro all'ano sporco di tutti i materiali che fuori esce. Scusami, Roberto, ma tu stai parlando sul serio? Tu stai parlando sul serio? Cioè, immagino, no? Non credo che ti sei costruito un personaggio, vuoi esagerare su questa cosa qua. Tu pensi davvero che la sessualità tra gli omosessuali sia qualcosa di sporco, giusto? Cioè sia sporco, perché, come dici tu, il rapporto orale tra due omosessuali e il rapporto anale tra due omosessuali te fa schifo, cioè una cosa contro natura. È ripugnante. E invece tra persone dello stesso sesso? È normale, cioè non è ripugnante. No. Cioè sempre quella cosa si infila nel deretano. Quello era un sistema medievale per la contraccezione. Cioè, la contraccezione, quando non esistevano dei sistemi chimici, questo è interessante. Però secondo te il sesso anale si faceva prima, quando non c'era la possibilità di contraccettivo? Sei sicuro di questo? No, in parte sì, non era quella la soluzione. Le grandi inchieste di Roberto da Milano, storico. dopo De Felice, ha definito dopo gli De omosessuali Felice, c'è questo Lerci. Minus Abens, no, qua. Roberto ha definito gli omosessuali Lerci, sporcaccioni, contro natura, e poi che ancora, Roberto? E che bisognerebbe fare secondo te con gli omosessuali? Bandirli, metterli in galera? Che cosa? No, sicuramente non bisogna consentire che i ragazzini siano indirizzati per quella strada con la teoria gender, ecco, questa. Ma chi li indirizza? Ma non li indirizza nessuno, questa è una puttanata che dite voi, no, ma nessuno li indirizza. C'è l'indirizzo, purtroppo c'è l'indirizzo, sì. Bisogna c'è l'indirizzo. Poi, Roberto, tu che mestiere fai? Aspetta, se ci dà l'indirizzo di casa, altro, esatto, che le mandiamo noi un'ambulanza. L'indirizzo, va. Altro che indirizzo. Comunque, fermi tutti, resta lì Roberto, resta lì che sei un personaggio interessante. State ascoltando un programma offerto da Centro Software, i migliori ERP per gestire le imprese italiane. La Zanzara. C'è l'invasione dei froci. Oggi se non sei Frost non sei nessuno. Parenzo, fra poco ti presento un personaggio. Mi raccomando, non fare la solita figura che stai zitto perché lo consideri un pervertito, no, un perverso, dipende. Uno zozzone, eccetera. Se dice sporcolerie. No, però non sì, lo consideri. Facciamo un'intervista intelligente. Facciamo un'intervista intelligente, sì, che non sia quella di scendere nel dettaglio. Se uno vuole andare a sentire i dettagli dei rapporti erotici, lo fa, va su internet, non c'è bisogno di sentire la Zanzara, diciamo la verità. Chiunque può essere utilizzato per un'intervista intelligente, anche un personaggio che fa parte dell'industria italiana. Cioè, fa bene più di tanti imprenditori italiani questo qua, perché manda avanti un'azienda, manda avanti un'azienda importante. A proposito di Razzi, com'è andato quel tuo weekend con lui? A prostitute. Bellissimo. No, prostitute, andiamo, stiamo calmi. Di weekend. Sei andato, tu hai detto alla radio di lavoro, di presentazione della Zanzara presso comunità italiane. E che saresti andato a prostitute in uno dei tanti. Sono andato a visitare. Ma che sei il Papa Giovanni? Sono andato a visitare. In visita pastorale. Vari bordelli svizzeri, l'organizzazione. Ma cosa vuol dire a visitare? Tu per esempio sai che esistono i contact bar. Tu sai cosa sono i contact bar? Sì, bar dove ci si può scambiare. No, sono dei bordelli però organizzati in modo diverso, sono i contact bar. Sì, sì, no. Ho letto anch'io giornali. C'è una differenza tra contact bar per esempio e FKK. Sai che cosa sono gli FKK tu? No, non sono degli aerei gli FKK. Quelli sono gli F-14 là, come si chiama? Anche FKK. Dai, su, dai. Sono gli aerei dei curdi KK. Ma no, sono delle saune sexy, diciamo. Sai che uno sceglie una signorina, stai come al mercato, no? Scegli una signorina, fai una mezz'oretta, un'oretta con una signorina e via. Posto molto conosciuto è il Globe, si chiama il Globe. Signori del Globe a Zurigo, molto buono, devo dire, molto buono. Sono andato a verificare quello che sarà uno dei pilastri della lista Zanzara, cioè la realizzazione di zona luci rosse, perché le case chiuse ancora non si possono fare nelle città. Oggi Vittorio Sgarbi ha annunciato che molto probabilmente, adesso dobbiamo definire bene gli accordi, si presenterà come candidato sindaco di Milano per la lista Zanzara. Sono molto contento di questa cosa perché ovviamente il candidato sindaco ideale, faremo una grande battaglia, lui però farà il comodo suo naturalmente, sarà il candidato della lista Zanzara a Milano. A proposito, Occhio alle firme. Io, hai battagliato oggi con la Biancofiore su questo tema, mi dicono, no? Sì. O sbaglio? Ma no, solo su questo, no, anche c'era anche il signor Stacchio, ma con Stacchio non ho battuto. No, che c'entra Stacchio, adesso abbiamo parlato delle armi. C'era anche il signor Stacchio. No, però hai battagliato sulla Biancofiore perché ti ha fatto una battuta, scendete in politica. Sì, sentiamo, non scendo, per niente, non mi candido per niente. Ma che c'entri tu, ma manco io mi candido, vai. Davide adesso sta entrando in politica, ho scoperto stamattina, quindi ovviamente mi deve contrastare. Sì, c'è la lista della Zanzara. Rimarrò sola a fare questo lavoro. Ha detto c'è la lista della Zanzara con Sgarbi. Io non mi candido assolutamente. Fate la lista della Zanzara a Milano. È una buttata di quel mattacchione del signor Cruciani che vuole fare la lista della Zanzara. Però so che voi due non vi candidate, però ma io prendo la lista della Zanzara. Io prendo le no, questa è quella per diffamazione. Allora scusate un momento, fermi. La Zanzara, un programma radiofonico di grande successo che Milano è condotto da Giuseppe Cruciani e David Parenzo, lancia, se ho capito bene, una lista a Milano per le amministrative. La notizia esatta è che Cruciani ha lanciato la lista alla Zanzara, io non aderirò alla lista, semmai farò una lista Rom. Io non piace ha già fatto la scissione, prima ancora che c'è la lista. Cruciani vuole fare la lista alla Zanzara, ma io non aderirò alla lista alla Zanzara. Però ma neanche Cruciani, ho capito che non si candida nemmeno lui, però appunto fate come Grillo e Casaleggio, no? Da solo. Come Grillo e Casaleggio, ma stupendo, va bene, torniamo al punto. Devo dire che non posso fare nemmeno come Grillo e Casaleggio. Cioè, lasciamo perdere la presa di distanza di Parenzo, che ormai sono abituato, lasciamo perdere, chi se ne frega, tanto fa parte della vita. Però il problema è un altro. Il problema è un altro, non si può fare nemmeno quello, purtroppo. Cioè, non posso fare nemmeno Grillo, perché Grillo è il capo politico dei 5 Stelle. Esatto, e dunque non potrebbe condurre una trasmissione radiofonica. Io invece mi limiterò per fottere una legge, mi limiterò a dare il mio timbro papale dall'alto, cioè dalla radio, eccetera, a una lista Zanzara che non avrà il mio nome. Io non comparirò da nessuna parte, però sarà ovviamente ispirata a quello che diciamo qui, ad alcune cose che diremo sull'amministrazione delle città in cui ci candideremo. Questo è il punto fondamentale. E Vittorio Sgarbi ha detto che sarà il candidato sindaco del Partito della Rivoluzione e della lista Zanzara, ma sarà la lista Zanzara, vedrete. Partito della Rivoluzione. Sì, è il suo partito, no? È il suo sì, partito. Quello, sì. No, quello ma quello so. Dice, poi ha detto, so che Parenzo e Cruciani, in realtà solo Cruciani, sta per lanciare le liste Zanzara nelle città, lo confermo, è così, spero in tutti e 1200 comuni, sarà molto difficile, attenti alle firme. Però così sarà con Sgarbi candidato sindaco. Che cazzo vuole questo Zanzara molesta di merda, lui e quell'altro stronzo che gli sta a fianco? Adesso non è l'inizio migliore, ma ce l'abbiamo sto ospite o no? Ah, Giovanni da Livorno, vai. Buonasera, ciao Cruciani. Vai Giovanni, dimmi, vai Giovanni. Ciao, allora, io volevo parlare per quanto riguarda il discorso della difesa e quant'altro. Io un estremo lo condanno, nel senso condanno chi vuole fare il Charles Bronson che fa tutto lo splendido, poi va nelle trasmissioni, quello lo condanno a prescindere. Però vorrei dire, per esempio nel paesino dove vivo io, che poi è un paesino della provincia di Potenza, sì, c'è una caserma dei carabinieri, dove di notte ci sono due pattuglie, ma il bello è che la caserma dei carabinieri è un altro paese a 15 km di distanza. E si due poverini come fanno a tenere a bada due paesi? E di furti appartamenti ce ne sono tanti. Sì, però Giovanni è vero anche che pretendere di militarizzare. Però al posto di armare. Aspettami, sì. Però al posto di armare la gente, perché guarda, che la mamma del coglione è sempre incinta, capisci? Allora al posto di armare la gente, perché non mettiamo dei volontari, delle ronde, di gente che comunque ha un minimo di base, un minimo di addestramento, anche autorizzati a portare un'arma, dei volontari, così possono pattugliare. Cioè, il crimine. Guarda, ci sono tanti modi. È evidente che non si può pensare di proteggere ogni casa, cioè è impossibile, altrimenti non esisterebbero i sistemi di sicurezza, non esisterebbero nemmeno le armi impersonali. Invece esistono, e per fortuna qualcuno si arma, nel senso qualcuno pensa di potersi difendere così, e fa bene se lo Stato glielo consente. Fino adesso è consentito anche in Italia, con grandi restrizioni, come è giusto che sia. Però Giovanni, capisco, le forze dell'ordine ce ne vorrebbero di più, però ogni persona che subisce un furto vorrebbe avere il carabiniere a 2 metri, a 3 metri. Quello è evidente. D'altra parte non si può nemmeno arrivare a dire la follia che ha detto l'altro giorno Librandi qui da noi, quando ha detto che bisogna chiamare i carabinieri, che quando uno è preso d'assalto da 1, 2, 3 ladri non è che pensa a chiamare i carabinieri, pensa a difendersi, a difendere la propria famiglia e tutto. Certo, poi se hai il telefono a portata di mano magari fai il 112 o il 113 al volo, però è complicato. Va bene Giovanni, grazie, ciao. Allora, che sta in macchina? Sta in macchina il mitico Alex Magni? Amico mio, Alex Magni. Alex! Grande produttore di cinema porno, di film porno per casalinghe in Italia. Sta in macchina. Ma che stai a fare in macchina? Dovresti stare negli studi televisivi a reclutare qualche... Ah, ho capito, sei andato a reclutare qualche casalinga in giro, vero? Fammici parlare un secondo. Così lo annuncio per domani, vai. Parenzo, ti devi preparare meglio domani. Adesso sì, però amico studiando. Mio, io so che sei andato a reclutare le casalinghe in giro, non puoi stare in macchina perché qui non abbiamo tempo, Alex. Fratello, tu mi hai detto le 20:30 e io ho ricevuto una telefonata alle 20:33. Ma non fare... Lo so, era a mangiare una pizza con due sardone, fratello. Ho messo avanti le sardone Alla Radio 24. Bravo. Non devi dire, poi devi dire, metto avanti le sardone, alla Zanzara, perché qui è un clima... 45 anni, in Toscana si dice tardone. Perché la 45... categoria, belle tettone, esperte. Ma perché 45 anni sono tardone secondo te? Sì, sì, tardone, tardone. Ma tu quanti dopo anni hai, Alex? Sono tardone, ma in senso buono, toscano tardone dopo i 40. Quanti anni hai tu, Alex? Non si dice l'età di una signora. Dai, su, non fare, non fare le cose, dai. Dito nella piaga, nel da 46, piaga. Bene, 47. Dai, sono del 70. Del 70? Ma veramente del 70? No, sono del 50. Beh, sono di quello che ti pare a te, dai. No, dai, dimmi la verità, Alex, dai, sono su. Del 70, io non del sparo le Parenzo, cazzate, del, ma tu sparo sempre. Tu, Davide, tu lo conosci, Alex, il signor Alex Magni? No, fino a... stavo guardando su internet la allora, sua biografia. Allora, signor Alex Magni, un personaggio straordinario. Perché vedo chi... i titoli di quel che salta fuori quando però il signor Alex Magni è... Lo sai perché... Ma con chi stai parlando? Come non conosci Alex Magni? Capisci? Ma chi è questo? Scusa. È uno che si sega o no? No, sì, io no, lo faccio. Non si sega, no, non più si che altro vedo i titoli delle bene. Sue opere, no? Le chiamiamo opere, sì, certo. Sì, ma che ospiti hai? No, non è opere, è opere. Devi portare dei porconi come ospiti. E gente che si sega, e allora sanno subito chi è. No, Alex ma Magni. Quello va benissimo, signore. Lo sanno un sacco di gente che ci professor Magni. Un sacco di gente che ci ascolta delle, lo sa. Se uno mette su Google, diciamo, la ricerca, intanto sì. Subito escono sì. Fuori. Ecco, la prima cosa che salta fuori, il primo titolo, diciamo, delle opere. Sì, opere magne, però, opere magne, opere magne, sono Alex, titoli incredibili. Ma è il titolo della sua professione. No, ma guarda, ci ho studiato a tavolino per i titoli, insomma, dai. Alex, io ho detto una cosa prima, ho detto una cosa, che in realtà molti della Confindustria, cioè molti industriali italiani, dovrebbero imparare da te, perché tu fai funzionare la tua piccola impresa. Adesso non mi fallirai domani mattina, non perché sennò mi sputta. La mia piccola impresa, io sono un umile collaboratore, sono uno che viene chiamato per andare a trombare. Sì, no, basta. Ma non solo quello, sei anche uno che ha creato questa casa di produzione. Comunque, vabbè. È stata un'idea, poi a monte mi hanno dato ragione nel tempo. Senti, Alex, ci sentiamo domani con più calma, però la cosa che voglio anticipare. Tante cose da dire. Tantissime cose da dire. Sì, che... ma ascoltami, sì. Fratello, dimmi, fratello, portami degli ospiti che si segano, fratello. Che guardano al 100%. Non mi ma guarda che la gente sì. Non lo dice, ma lo fa, e questa è la differenza. Non troverai gente che lo dice, ma lo sai meglio di me, che conosci il mondo delle persone. Radio 24, segatevi almeno due volte il giorno. Ecco, ciao, ciao Alex, a domani, ciao, ciao, ciao. Arrivederci, ciao. Professore. Questo è il numero uno assoluto. Let's go, let's go. Arrivederci professore pure non era male, devo dire. Arrivederci professore. Professore, certo. Professor Magni, per carità. Allora, voglio leggere una cosa che ha scritto un signore che si chiama Maurizio Baruffaldi. Poi ho tre ascoltatori, li voglio fare tutti, non mi rompete i coglioni. Allora, la religione triste dei vegani integrali. Si documentano su come vengono uccisi gli animali da tavola, sul bombardamento di antibiotici, su come vengono trattati in allevamento. E diventano vegani, poi dedicano l'intera giornata, perché anche il pensarci è agire. Ripeto, dedicano l'intera giornata a cosa mangiare mattina, mezzogiorno e sera. Hanno denaro e tempo da spendere, perché si tratta di elaborazioni vegetali e con prodotti da negozio religioso, dove si aggirano con alterigia solidale e dal quale escono con un pacchetto di crackers da 5 euro. Fanno tiramisù senza latte, burro e uova, ma dicono che ha lo stesso sapore, o lo spezzatino di tofu, che sembra carne, perché è il tiramisù e lo spezzatino che vogliono. Come fosse un esorcismo. Se non arrivano ad odiarti, gli integralisti odiano per concetto, ti compatiscono. Tu che mordi un hamburger, che lacrima sangue o sorseggi un cappuccino con la schiuma. Sia chiaro, hanno valide ragioni. Io stesso mangio pochissima carne e adoro tutto l'integrale possibile, ma l'integralismo è altro ed è veleno. L'attenzione al cibo non può essere paranoia. Il vegano invece arriva ad evitare l'invito a cena. Potrebbe portarsi la schiscetta santa, ma lo spaventa quello che rischia di vedere in tavola. E spesso è pure astemio. Eppure uno studio conferma che chi beve il giusto vive più a lungo di chi non beve mai. Il 69% degli astensionisti è deceduta nei 20 anni successivi, contro 41% dei bevitori moderati. E addirittura contro il 61% di chi non disdegna di alzare il gomito. Ti Tiziano da Firenze, vai. Stefano d'Alessandria, Luca da Roma. Stefano, vai. Pronto? Dimmi. Sì. E niente, volevo parlare per quanto riguardava il saluto romano. Ecco, io di denuncia ne ho avute tre. Per il saluto romano sono sempre stato assolto. Questo la dice lunga sulla non sussistenza, diciamo, del reato. Anzi, vorrei chiedere a Parenzo perché secondo lui il saluto romano deve essere vietato. Oppure, se evitiamo il saluto romano in quanto non democratico, lo evitiamo. Cioè, tu perché sei stato in tribunale tre volte per il saluto romano? Esattamente. Ma perché? Che hai fatto? Sei fascista? Che hai fatto? Beh, è una commemorazione, quindi un segno di saluto a un defunto, quindi non era una provocazione, non sono andato. Vabbè, ho capito, hai fatto il saluto romano, amico mio. Cioè, hai fatto il saluto romano e sei stato evidentemente ripreso, o qualcuno t'ha visto, che è successo? Esatto, però la tre volte assoluzione significa che proprio poi alla fine il giudizio è stato. Continui a farlo, se si diverte così. No, non è che mi diverte. Dovrebbero portarla in un buon reparto specializzato, ma comunque. Vabbè, ragazzi, dobbiamo chiudere. Stefano, ti chiamo domani, dai. Abbiamo un sacco di gente da chiamare domani. Io ho qua sempre il busto in legno di Hitler per il signor Fiano, perché, ragazzi, è collezionismo, non me ne frega niente, mica sono hitleriano, mica posso andare in galera per una roba del genere. Ciao. Popolo di Radio 24, segatevi almeno due volte al giorno. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza. Lo so, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24. La passione si sente.